Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Bologna e naturalmente anche l'ascolto sul web tramite la app che potete tranquillamente scaricare dal nostro sito radiocittafujiko.it e col quale appunto ascoltarci in tutto il mondo. Città Fujiko Live Club, la trasmissione che inizia sempre con questa sigla, Lyle di Derek and the Dominos, e che si propone di farvi ascoltare un paio di ore di musica dal vivo, di ogni genere e di ogni epoca. Città Fujiko Live Club inizia sempre con una novità, quasi sempre con una novità, e anche quest'oggi c'è la novità ed è una novità molto molto interessante da parte di una delle mie band preferite in assoluto, una band che viene da Burlington nel Vermont, quindi sono montanari diciamo così, una band che è insieme dal 1983, anche se poi ogni tanto entrano in quello che si chiama hiatus, cioè un piccolo spazio personale per ogni componente della band, sono quattro, che fa le proprie cose personali, poi magari il gruppo ritorna insieme. Non è uno scioglimento ufficiale, è solamente un addormentamento temporaneo, diciamo così. La band si chiama Fish. I Fish, che qui in Italia sono praticamente sconosciuti, negli Stati Uniti hanno un seguito enorme e fanno multiple date in arene da 20.000 posti e d'estate fanno stadi e veramente sono famosissimi, soprattutto grazie ai loro concerti. Onestamente i dischi non è che siano trascendentali, ma i concerti sono fantastici, con sempre grandi improvvisazioni, scalette che cambiano costantemente e veramente una grande band. Grande band che dà la possibilità di scaricare dal loro sito a pagamento o comprare il CD praticamente tutti i concerti che fanno, che ultimamente negli ultimi anni non sono tantissimi, fanno diverse tranche di tour da 10-12 date, niente di più, e però ogni tanto ufficializzano una di queste date e pubblicano ufficialmente un album. Quasi sempre si tratta di concerti dal vivo retroattivi, nel senso che guardano al passato. L'album che vi propongo oggi è un quintuplo CD è un box set con minimo delle informazioni necessarie, è stato pubblicato nel dicembre dello scorso anno, del 2022, e si chiama The Gorge 98. Il Gorge è un anfiteatro che sta a George, scusate il gioco di parole, nella Grand County, nello stato di Washington, ed è anche questo un anfiteatro naturale molto bello che è stato aperto nel 1986 con 3.000 posti a sedere. Poi nel 1993 cambiò la proprietà, che portò la capienza del Gorge a 19.000 persone. Qui in questo cofanetto sono rappresentati due concerti effettuati al Gorge, e quindi potete tranquillamente immaginare che sono 39.000 persone secche che hanno partecipato ai due concerti immortalati in questo Gorge 98 da parte di Fish. Fra l'altro anche della Dave Matthews Band e i Pearl Jam hanno pubblicato dei cofanetti registrati in questo locale. I due concerti sono stati registrati il 16 e il 17 luglio del 1998, e dopo tutte queste chiacchiere andiamo ad ascoltarci un brano che è quello che apre la trasmissione. Si chiama When the Circus Come. Un brano dolcissimo, si chiama Quando arriva il circo, When the Circus Comes, e i più attenti di voi avranno capito, sapranno che questo non è un brano dei Fish, infatti è una delle tante covers che la band esegue in concerto e da anni oramai esegue questo brano, che in realtà è dei Los Lobos, dal loro album Kiko del 1992. E appunto ho scelto questo brano apposta per avere poi lo spunto per farvi ascoltare in questa prima parte della trasmissione delle covers che sono uscite nel corso del 2022 appena finito. Chiaramente molti album che ci ascolteremo sono quelli della settimana scorsa, del best del 2022, ma questo non ha avuto spazio purtroppo nella scorsa trasmissione, per cui ve lo faccio ascoltare subito. È un album che si chiama At the Royal Albert Hall, lo storico locale circolare londinese, uno dei templi della musica non solo rock, non solo classica, ma di tutta la musica del mondo, in quel di Londra. E è uscito lo scorso anno questo album, seppure è stato registrato nel 1970, e comprende un paio di covers fatte dai Creedence Clearwater Revival, sempre nei loro concerti, o quasi sempre. Questa è una di quelle. È un brano che si chiama The Night Time is the Right Time, la notte è il tempo giusto, diciamo così, che è un super classico della musica blues dei primi anni, dei primi anni del secolo scorso, per cui la sua genesi è abbastanza contorta, è abbastanza nebulosa. Diciamo che il primo a cui è stato accreditato questo brano si chiama Roswell Sykes, ma poi ci sono state diverse versioni con cambiamenti di liriche, ed è rimasto però sempre uguale il lato musicale. Questo brano fu portato al grande successo da Ray Charles, ma anche i Creedence Clearwater Revival non scherzano. The Night Time is the Right Time. We'll be right back. take my time. A friend of the devil's a friend of mine. If I get home before daylight, I just might get some sleep tonight. Well, I ran into the devil and he loaned me 20 bills. I spent the night in Utah in a cave up in the hills. I said I'd run him, but I take my time. A friend of the devil is a friend of mine. If I get home before daylight, I just might get some sleep tonight. Well, I ran down to the levee, but the devil caught me there. And he took my $20 and he slipped back all my hair. I said I'd run him, but I'd take my time. A friend of the devil is a friend of mine. If I get home before daylight, I just might get some sleep tonight. I've got two reasons why I cry away each lonely night. First one's named Sweet Anne Marie, and she's my heart's delight. Che mi riguarda la migliore uscita discografica del 2022, questo cofanetto splendido, si chiama Live at the Fillmore 97, comprende registrazioni effettuate durante una residency di Tom Petty and the Heartbreakers nell'omonimo locale di San Francisco, e ci sono 58 brani di cui 35 covers, per cui era abbastanza facile trovare qualcosa, il problema era scegliere quale, e ho scelto appunto questo Friend of the Devil, uno dei classici dei Grateful Dead, dall'album American Beauty del 1970. E come ho già detto la volta scorsa, il 2022, come oramai gli anni precedenti, è stato un anno di ripescaggi, molti concerti vecchi, molte registrazioni vecchie, e anche Soulside Johnny con i suoi Hasbro Jukes hanno rispolverato un concerto del 1977, dove, fra parentesi, a metà concerto avevano come ospite Ronnie Spector, che è una cantante che è stata molto famosa negli anni 50 come membro delle Ronettes, poi ha sposato per qualche anno, 6 esattamente, Phil Spector, e purtroppo poi è morta lo scorso anno, anzi è praticamente un anno che è morta, perché è morta il 12 di gennaio. Lei partecipa a questo concerto registrato a Cleveland nel 77 da Soulside Johnny and the Hasbro Jukes con una cover di Billy Joel che si chiama Say Goodbye to Hollywood. You and now the star of the show. Hey, you have me one too many times on the radio today, you know? I gotta get back. Will you please welcome the lady of the house? She's welcome to any house. Will you welcome Miss Ronnie Spector? I'm gonna bring you up to date a little bit. 1977. I'm doing my latest recording on Cleveland International. produced by Miami Steve Van Zandt. It's called Say Goodbye to Hollywood. He joined the lovers in his heavy A proposito di concerti rispolverati, diciamo così, di cui parlavo prima, a proposito di Salsa Johnny and the Asbury Jukes, anche l'entourage di Willie DeVille ha pubblicato un concerto vecchio del 2008, non vecchissimo come quello di Salsa Johnny, ma del 2008. L'album si chiama Venus of the Docks, contiene anche in questo caso diverse covers, fra cui questa particolare versione di Hey Joe, che è diversa anche da quella solita che fa Willie DeVille, o che ha fatto Willie DeVille in precedenza. Hey Joe è un brano conosciutissimo, però pochi conoscono la sua storia, o per meglio dire una delle storie che hanno portato alla nascita di questo brano che vi racconterò, quella che è la mia storia preferita fra le tante che riguardano la genesi di questo pezzo. E Dino Valenti la scrisse in carcere, poi siccome aveva bisogno di soldi chiaramente la vendette per pochissimi soldi a un tale che si chiama Billy Roberts, che è poi colui che è accreditato unanimemente come come autore del brano, anche se in realtà pare che non sia vero. Da lì poi è stata tutta una pletora di covers, la più famosa naturalmente quella di Jimi Hendrix, ma poi è arrivato Willie DeVille che ha stravolto il brano, l'ha cambiato totalmente, e questa era la versione del 2008. Dopo tutte queste cose vecchie, invece una cosa nuova, un album che si chiama Live in Glasgow, che è stato registrato il 3 settembre del 2021 da una band di Glasgow che si chiama Mason Hill, band che promette bene, visto che questo album live è il secondo solamente della loro discografia. Se continuano di questo passo sarà veramente da divertirsi, anche se è una band molto aggressiva, molto potente, una di quelle che non è che rientri particolarmente nelle mie preferenze, ma fanno anche delle cose belle, tipo questa covers che adesso ci andiamo ad ascoltare e che presentano loro stessi. Ladies and gentlemen, this is Best of You by Foo Fighters. Well, I've got another confession to make. I'm no fool. And everyone's got the chance to break holding you. Where you're born to resist or be abused. Help me out. With someone getting the best, the best, the best, best of you. With someone getting the best, the best, the best, best of you. Are you gone? Whoa, whoa, okay. Come on! due covers al prezzo di una da parte dei grandissimi Georgia Satellites, chiusura di concerto con I Wanna Be Sedated dei Ramones, originariamente era nell'album Road to Ruin del 1978, per poi concludere con questa Shake, Rattle and Roll, accreditata a Charles Colun, ma anche in questo caso, come vi ho già spiegato in precedenza, per molti brani blues di vecchissima data, l'attribuzione è abbastanza incerta. Di sicuro è che il primo ad aver registrato questa Shake, Rattle and Roll è stato Big Joe Turner nel 1954. Avviamoci verso la conclusione, calmandoci un attimo dopo questa iniezione di rock adrenalinico, prima da parte di Mason Hill, poi da parte di Georgia Satellites. Adesso arrivano i Kodaline, hanno pubblicato lo scorso anno un album che si chiama Our Roots Run Deep, album che è acustico, molto tranquillo, molto calmo, che comprende una cover abbastanza anomala, diciamo così, inaspettata. È un brano che riconoscerete certamente, per cui magari non ne parlo neanche. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said don't mind, but what do you mean? I am the one who will dance on the floor and around. She said I am the on the floor and around. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. Mother always told me, be careful who you love. Be careful what you do, because the lie becomes the truth. Billie Jean is not my lover. She's just a girl. That I am alone, but the kid is not my son. She said I am alone, but the kid is not my son. 1, 2, 3, 4. For 40 days and for 40 nights, love was on her side. But who can change when you're in demand with schemes and her plans? On the floor and around. She said I am the one who will dance on the floor and around. People always told me, be careful what you do. Don't go around bringing young girls out. Mother always told me, be careful who you love. Be careful what you do. Evaluate along the dotted line. you never recognize yourself on heart attack and fire. Doctor, lawyer, bigger man, village, your remarkable looks on in disbelief. You wanna taste the madness, well, you have to wait in line. Probably someone you know on heart attack and fire. China wife, shorty found a porn. You know there ain't no devil, it's just God when it's drunk. Well, this stuff will probably kill you. Let's do another line. Well, you say you meet me down on heart attack and fire. See that little Jersey girl in a see-through top, wearing pedal pushes, sucking on a lollipop. Why, I bet she's still a virgin, but it's only 25 to 9. You can see a million of them on heart attack and fire. Your scrambled eggs, then crawling down Cahuenga on a pair of broken legs. You'll find your ignorance is blissful every goddamn time. You're waiting for the RTD on heart attack and fire. Bigger man, fever. Village, your remarkable looks on in disbelief. You wanna taste the madness, well, you have to wait in line. Probably someone you know on heart attack and fire. Nel 2001 John Hammond Jr. fece un album di covers di brani di Tom Waits. L'anno seguente lo portò in giro suonando un po' in tutta Europa e anche negli Stati Uniti. Il 2 maggio del 2002 era in quel di Brema dove registrò questo album che si chiama Wicked Green Live, che comprende praticamente tutte le canzoni dell'album originale, suonate dal vivo chiaramente, compresa questa Heart Attack and Vine che ha concluso la prima parte di Città Fujiko Live Club di oggi. the squirming coil of sunset. I keep him in my reach. Tried yesterday to get away and hitchhike to the beach. I saw Satan on the beach trying to catch a ray. He wasn't quite the speed of light, and the squirming coil, it got away. We'll be right back. Brano di apertura del concerto del 16 luglio 1998 al Gorge, stato di Washington, da parte di Fish. Il brano si chiama The Screaming Coil ed è anche il brano di apertura di questo splendido quintuplo cofanetto che vi propongo oggi come novità, diciamo la prima novità del 2023, anche se chiaramente è risalente al 2022. Appunto si chiama The Gorge 98, questo cofanetto consigliatissimo a tutti, veramente c'è la musica spettacolare come questa The Screaming Coil ha dimostrato. E come sempre anche nel 2023, nella seconda parte di Città Fujiko Live Club, arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna 11 gennaio nel passare degli anni. E oggi è una giornata un po' anomala, nel senso che è una delle più scarne come registrazioni effettuate in questa giornata. Infatti, a mia conoscenza, non c'è nessuna registrazione degli anni 70. È una cosa abbastanza particolare, ma può capitare. Chiaramente io non sono onnisciente, per cui se volete, se avete qualche registrazione live in casa di questo 11 gennaio, qualsiasi sia nel corso degli anni 70, potete tranquillamente comunicarmelo e comunicarmelo attraverso il WhatsApp o gli SMS, che sono il numero che dovreste sapere, comunque 333 18 09 494. E intanto però andiamo con le altre quattro decadi, che comunque sono sempre molto molto interessanti e molto molto importanti. Iniziamo dal 1969 e siamo una band che non è stata mai troppo valutata. Si chiamavano Country Joe and the Fish. Probabilmente molti di voi ricorderanno Country Joe nella versione cantautoriale, diciamo così, a Woodstock, dove ebbe un grande successo con la sua I Feel Like I'm Fixing to Die, che è un brano antimilitarista molto molto noto. E però la sua band era tutt'altro, la sua band era una band psichedelica che fu attiva dal 1965 al 1970 e fu veramente una delle band più importanti nell'area di San Francisco, che purtroppo, loro venivano da Berkeley, far parentesi, che purtroppo è veramente dimenticato, e questo è un grave handicap, una grave mancanza per quel che riguarda i media di tutto il mondo. E tanto per dire, in questa serata che si svolse al Fillmore West l'11 di gennaio del 1969, prima di loro ad aprire per Country Joe and the Fish c'erano prima Taj Mahal e poi i Led Zeppelin. Scusate se è poco, comunque ce ne andiamo ad ascoltare. L'album si chiama Live, Fillmore West 1979, appunto 11 gennaio. Il pezzo che ho scelto per voi si chiama It's So Nice to Have Your Love, Country Joe and the Fish. It's called It's So Nice to Have Your Love. Young love appears in a springtime fancy, flashing then fading away. The joys and the fears of first time romancing, living your lives day by day. Day tomorrow seems so far away. Can't you feel her pain? She needs someone to touch at night alone. She needs someone to comfort her then. You caused her agony by taking away the only thing she ever cared. Tampered with her heart. Don't believe yourself a love that's more than you'd ever hope that you could have. You can't remember when you walked the streets alone and darkness plagued your every waking hour of the day. It's so easy when everything is right. In realtà questo album, che si chiama, lo ripeto, Live Fillmore West 1979, è attribuito a Country Joe and the Fish and Friends, perché l'ultimo pezzo, che si chiama Donovan's Riff Jam, che è appunto una jam su un brano di Donovan, dura 38 minuti e mezzo e vede impegnati, oltre a Country Joe and the Fish, anche alcuni amici, appunto, che rispondono al nome di Mickey Hart, Jerry Garcia, dei Grateful Dead, John McCaughnan dei Jefferson Airplane e Steve Miller della Steve Miller Band, quindi direi proprio che è una super jam. Il brano che ci siamo ascoltati invece si chiama It's So Nice to Have Your Love, era l'11 gennaio 1969. Come dicevo, negli anni 70 che non mi risulta nessuna registrazione effettuata in questo giorno, per cui passiamo direttamente agli anni 80 e proprio al 1980, direi l'anno di grazia e nello stesso tempo di disgrazia dei Joy Division, che sono stati attivi appunto dal 76 all'80, poi sono sciolti in seguito alla morte di Ian Curtis il 18 maggio di quell'anno e dopo sono diventati New Order, ma questo lo sapete meglio di me. E dopo lo scioglimento della band naturalmente ci sono state diverse registrazioni pubblicate sia live che in studio, e in studio poche a dire il vero, diverse live, fra cui questa che ho tra le mani, che come titolo, scusate il mio pessimo francese, dice Les Bains Douche, 18 dicembre 18 December 1979, e il titolo è un po' fuorviante, nel senso che in realtà su 18 pezzi, anzi su 16, solamente 9 sono registrati a Parigi a Les Bains Douche appunto, mentre altri 3 sono registrati ad Amsterdam l'11 gennaio e 4 invece ad Eindhoven il 18 gennaio 1980. Appunto a noi interessano quelli dell'11 gennaio al Paradiso di Amsterdam, 11 gennaio naturalmente 1980, fra questi c'è uno dei classici, super classici della band, si chiama Atrocity Exhibition, Joy Division. Exhibition. Everything that I had to conquer my again. But I could feel the footsteps marching to the beat of no one's drum. Many times. Se i Fish sono indubbiamente capofila del movimento jam bands americano, questi Acoustic UK sono subito dopo, arrivano sul podio pure loro. Una band che viene da Columbus, Ohio, ed è attiva dal 1991, anche se anche loro ogni tanto si mettono in riposo, il cosiddetto hiatus. Ma questo doppio dischetto che si chiama semplicemente Live, a proposito Acoustic UK, è un termine che arriva dalla lingua dei nativi dell'Ohio, ma non vi so assolutamente dire cosa significhi, ma questo è un altro discorso. Diciamo, questo album che si chiama semplicemente Live è stato registrato in diverse occasioni, ma l'11 di gennaio del 1995 erano in casa alla Newport Music Hall di Columbus, Ohio, appunto, e il pezzo che ci siamo ascoltati si chiama Many Times in My Life. Loro si chiamano Acoustic UK. Andiamo a concludere con una band conosciutissima in tutto il mondo, si chiamano Aerosmith, vengono da Boston, sono attivi oramai da 50 anni, anzi forse qualcosina di più, e naturalmente sempre capitanati dal punto di vista mediatico da Steven Tallarico, in arte Steven Tyler, cantante, e Joe Perry, in arte chitarrista. Il duo viene chiamato Toxic Twins, i gemelli tossici, che dice già tutto sulla loro predisposizione per certe sostanze, e hanno un successo veramente strepitoso. Qui abbiamo un album che si chiama semplicemente Rocking the Joint, perché è stato registrato in questo locale che si chiama The Joint, che è all'interno dell'Hard Rock Hotel and Casino di Las Vegas in Nevada. Come sapete, questi hotel sono enormi, contengono al loro interno, oltre a tutte le sale da gioco possibili e immaginabili, anche un teatro e spesso anche due, tutti di buona capienza, vanno sui 5.000, tipo questo joint, e molte band vanno lì a suonare, e in altri locali invece ci sono proprio personaggi un po' ammuffiti che ci stanno degli anni, ma a noi interessa quello che è successo l'11 gennaio appunto del 2002 al Joint di Las Vegas, e Aerosmith ci fanno ascoltare uno dei loro grandi successi, si chiama Draw the Line. Joe Perry in the house. No. Aerosmith a concludere Ricordi Today di oggi con questa Draw the Line registrata l'11 gennaio del 2002 in quel di Las Vegas. A concludere invece la trasmissione Città Fujiko Live Club ci penserà la novità che vi ho proposto quest'oggi, i Fish, ma naturalmente prima vi devo ricordare che vi siete ascoltati appunto Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica dal vivo ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.25 e con musica di ogni genere e di ogni tipo. Naturalmente il tutto da Radio Città Fujiko, che è sui 103.1 MHz più il web con l'apposita app che potete scaricare dal nostro sito radiocittafujiko.it, naturalmente città senza accento. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a mercoledì prossimo, stessa ora, stesse frequenze, stessa, si spera, musica di vostro gradimento. E il tutto va a concludersi appunto con qualche secondo purtroppo della novità che vi propongo quest'oggi, The Gorge 98 dei Fish. Il brano in particolare si chiama Niku. Gelatin holding me fast. Miraculous, now you let me go.